parole dette mai, e mi sentirai tra le note che non sai, in quelle delusioni, in forza di illusioni crescono. Mi seguirai se non avrai più pensieri, ti siederai dove eri seduta ieri, in mezzo a quelle sere, fra chi dorme, fra chi beve, gli altri impallano. Vieni un attimo qua, tanto non cambierà, cambierà. Ce ne andiamo noi due, perché questo è il modo più facile. Quando non avrò parole, mi sosterrai combattendo contro il cuore, contro quelle scuse che ho sentite e disilluse ignorare. E sentirai la voglia di allontanarti, ma proverai lentamente abituarti, quando quelle frasi fanno male, ma i conigli